Il mio dottore non sa che c'ho, vuole aprirmi la testa, controllarmi il cervello. Gliel'ho detto che sono normale, ma lui no, vuole vederci meglio. Il mio dottore non sa che c'ho, vuole aprirmi la testa, controllarmi il cervello. Gliel'ho detto che sono normale, ma lui na na na na na na na na na na. Ti sarò chiaro, se per mezzanotte non tocco il cielo, scompaio come Kevin Bacon, sono fuori orario. Il mio treno è già passato, devo tornare indietro nel tempo. Io non sto dentro, comprendi? Chiama lo strizza cervelli, ti mando un frammento di isteria. Sono il vampiro che si beve ogni tua fesseria. Poi cammino strascicando per la via come se uscissi da un'osteria. Sfioro picchi di pazzia, specie quando rifletto al buio in camera mia, ma resto in ballo grazie al demone che mi parla nell'orecchio. Ogni sua parola un colpo di revolver che colpisce l'intelletto, e da dentro mi ammazzo col cazzo che esco, come vorrebbe il mio dottore. Il mio dottore sono io e per mo resto incollato alla PlayStation. Il mio dottore non sa che c'ho, vuole aprirmi la testa, controllarmi il cervello. Gliel'ho detto che sono normale, ma lui no, vuole vederci meglio. Il mio dottore non sa che c'ho, vuole aprirmi la testa, controllarmi il cervello. Gliel'ho detto che sono normale, ma lui na na na na na na na na na na. Tu lo sai che un sì e un no, finisce tutto qui e boh. La colpa non è la mia, se mo sfioro picchi di pazzia e lì suono nel mio show. Tu lo sai che un sì e un no, finisce tutto qui e boh. La colpa non è la mia, se mo sfioro picchi di pazzia, sfioro picchi di pazzia. Non ingerisco pillolette, vivo di piccolezze, ma già in testa di fare piroette. Ho la testa infettata da entità tipo Plagas, quindi testa malata. Non mi convinci, tu segni dei drammi sui palmi o tra le meninci. La vinci coi tuoi amici, finché giocate coi pesci piccoli. Siete ridicoli, idioti in cerca di stimoli, vi fate grossi coi veicoli. Io impazzisco, unisco parole non composte, ci formo sciarade, finisco male come nel programma Ludovico. Alex è il mio punto forte, non è visto come tale. Basta parole, piango come il salice, mentre l'infermiere mi sta mettendo il camice. Il dottore non mi ascolta, e infila i suoi guanti in lattice. Io morto dentro come Frank e sto il Punisher. Sfioro picchi di pazzia, sfioro picchi di pazzia. Sfioro picchi di pazzia, sfioro picchi di pazzia. Sfioro picchi di pazzia, sfioro picchi di pazzia. Sfioro picchi di pazzia, sfioro picchi di pazzia. E ci siamo, 2009, Marco Log più Yaya, con il suono più angosciante. Il mio dottore non sa che c'ho, vuole aprirmi la testa, controllarmi il cervello. Gliel'ho detto che sono normale, ma lui no, vuole vederci meglio. Il mio dottore non sa che c'ho, vuole aprirmi la testa, controllarmi il cervello. Gliel'ho detto che sono normale, ma lui na na na na na na na na na. Calabria.